fra. Gli anni del boom economico e della new wave, gli anni in cui chi comandava raccontava menzogne a noi povera gente con in testa l'America. La fortuna di vivere gli anni 90, gli anni in cui vennero a galla troppe bugie, gli anni dei conti spariti e dei soldi donati, gli anni in cui il cielo decise di strapparci due eroi. E noi ancora crediamo che un giorno cambi qualcosa. E noi ancora crediamo che il vento spazzi via il male, che il mare e le onde accompagnino il nostro dolore. Alla deriva lontano, lontano da qui. Millennio, anni in cui ci hanno drogato al reality show, anni di donne stupende ma tocco le pere, anni in cui il silicone ha soppiantato il ceo in giù. Ora vi sto scrivendo dal 2011, e forse così fortunato non mi sento più. Questi sono gli anni in cui il sol non può girare la terra, le teste di cuore si incontrano in questa finta realtà. Crediamo che un giorno cambi qualcosa, e noi ancora crediamo che il vento spazzi via il mare, che il mare e le onde accompagnino il nostro dolore. Alla deriva lontano, lontano da qui. Alla deriva lontano, lontano da qui. Il 2020 sarà il nome della tecnologia, anni in cui il termine amore verrà registrato, e per amare qualcuno pagherai anche tu.